Il Nuovo Testamento. La continuità. Il senso dell'Antico Testamento può essere colto pienamente solo alla luce del Nuovo, come dimostra l'esempio appena citato della lettura del brano del secondo libro dei Maccabei alla luce del sì della Vergine Maria alla passione del Figlio. È fondamentale quindi non separare i due testamenti. In ambito neotestamentario, fin da subito, uno dei problemi fu il confronto con lo gnosticismo. Marcione, 170, rifiutava completamente l'Antico Testamento. Nella sua lettura, il Dio misericordioso del Nuovo Testamento avrebbe sostituito il Dio giusto e severo dell'Antico. La materia non sarebbe stata creata da Dio, ma da un demiurgo malvagio. Da questa prospettiva, la materia avrebbe dovuto dunque essere superata. Sembra che queste idee si fondassero sulla convinzione che la dottrina della creazione non appariva esplicitamente nel Nuovo Testamento. Ma la connessione con l'Antico Testamento non può essere eliminata, altrimenti non si comprende la nuova creazione che si realizza con la redenzione. Gli gnostici opponevano creazione e salvezza in funzione spiritualistica. Secondo loro, al fine di salvarsi, l'uomo doveva fuggire dal mondo per raggiungere una salvezza dal mondo e non una salvezza del mondo, secondo l'interpretazione autenticamente cristiana. Nei Vangeli sinottici e negli Atti si parla poco di creazione perché era dottrina ormai affermata tra i destinatari di questi libri, ma Cristo si richiama esplicitamente al principio, come avviene a proposito della indissolubilità del matrimonio, Matteo 19:4-8. Non c'è soluzione di continuità con il passato. Proprio questo è l'insegnamento fondamentale a proposito della creazione. Nulla è impuro di per sé, Marco 7:15-19. La profondità dell'essere è buona. Il vero insegnamento sulla creazione nel Nuovo Testamento è proprio l'incarnazione del Verbo divino, nella quale il Creatore si è fatto creatura. Ciò si può comprendere solo in termini di amore e di gratuità, di dono assoluto. Per questo Luca enfatizza in modo particolare la dimensione universale della salvezza e la misericordia senza limiti. Matteo insiste sulla totalità intensiva della salvezza, Luca su quella estensiva. La salvezza si estende a tutto e a tutti, perché Dio è l'artefice di tutto e di tutti. Si afferma la continuità con la creazione, come è affermata nell'Antico Testamento, ma in Cristo, nel suo sangue versato sulla terra del Calvario, si rivela il vero valore e il vero senso di questa creazione, che è dono d'amore. In tale contesto si nota l'importanza del passaggio realizzato dalla letteratura sapienziale che ha preparato il culmine della rivelazione nella persona del Cristo. Ponte tra l'Antico e il Nuovo Testamento è la parola di Dio, il Logos. Dio ha creato attraverso la sua parola, ha chiamato il popolo all'alleanza, costituendolo e manifestando così la sua potenza e la sua efficacia assoluta. Parola e sapienza divine sono in stretto contatto. Tutto è penetrato dalla sapienza del Creatore attraverso la quale ogni cosa viene creata. Sapienza che è superiore alla creazione stessa, anche se fatta da Dio e distinta da Dio. Essa viene intesa come titolo messianico che Cristo stesso si applica, Matteo 23:34 e Luca 11:49-50. I primi padri dubitavano tra l'applicazione allo Spirito o a Cristo, ma a poco si fece strada l'attribuzione al Verbo incarnato e, in dipendenza da essa, la dimensione mariologica. Il Logos di Giovanni. Si tenga presente che per il pensiero greco il termine parola, Logos, assumeva significati molteplici, circostanza che ne rende difficile la traduzione. Il primo che ha sviluppato una certa filosofia del Logos è stato Eraclito, VI secolo a.C., che ne parlava nel senso di una ragione universale, responsabile dell'armonia del creato, che a volte era assimilata alla vita e al fuoco, e che aveva carattere divino. Platone parlò del logos nel contesto del rapporto tra il mondo delle idee e il mondo materiale, forgiato dal demiurgo proprio seguendo la proporzione indicata dal mondo ideale. Egli era un essere situato ontologicamente a metà strada tra la sfera propriamente divina, cioè l'iperuranio, e il mondo materiale, nel quale i diversi enti verrebbero plasmati da questo mediatore come immagini della realtà più vera, costituita dall'idea di quello stesso ente. Il logos sarebbe dunque questo rapporto di corrispondenza tra il modello perfetto e la copia inferiore. La mediazione in questo contesto è necessaria e implica degenerazione. Aristotele applicò poi il termine prevalentemente all'ambito propriamente logico, ma a partire dal III secolo a.C. gli stoici svilupparono una filosofia del logos che confluì insieme alle diverse correnti neoplatoniche per divenire comune in tutto l'ambito greco-romano e quindi nel milieu culturale ellenista nel quale si muovevano gli evangelisti. Si noti che per Platone il principio di intelligibilità restava ideale, mentre per gli stoici esso era immanente. Filone, filosofo ebreo contemporaneo di Cristo, praticamente identificò il logos con la sapienza di Yahweh, anche perché lo stesso libro della Sapienza suggeriva questa identificazione nell'uso del termine. Sapienza 9.1, 16, 12, 18, 14. Nel prologo del Vangelo di Giovanni, Giovanni 1, 1, 18, si ha però una radicale novità. Si afferma che Dio e il Verbo, logos, parola, sono la stessa cosa. Il Verbo, ora assolutamente trascendente, è però presente nella creazione, perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Verso 3. E perché in Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Verso 4. Ma le tenebre non l'hanno accolto, non è stato riconosciuto, e per questo si è incarnato. Questo Logos di cui si parla è Dio, ed è una persona concreta che i discepoli hanno visto e toccato. Prima Giovanni 1.1. Il brano ha una struttura centrata sul versetto 12, dove si parla della filiazione divina. Nel primo versetto appare il Verbo di fronte al Padre con l'affermazione della sua divinità. Immediatamente si dice che ogni cosa esistente è stata fatta per mezzo suo, verso 3. È come se l'incipit della Genesi venisse esplicitato, mostrando l'intimità di colui che è l'autore della creazione. La prima metà, versi 1-11, del prologo ha infatti una struttura discendente. Si parte dall'immanenza divina e si afferma che la creazione è sgorgata da essa, in quanto il Logos è da sempre in questo vero e proprio cuore di Dio. Quindi si avanza nella storia della salvezza con il riferimento al Battista, verso 6, per poi riferirsi all'incarnazione e al rifiuto del Verbo in termini di luce che viene nel mondo. Versi 9 e 11. Dopo il verso 12, che costituisce il fulcro attorno al quale ruota il passo e che presenta il senso della creazione stessa e della storia nella possibilità offerta agli uomini di diventare figli di Dio, si ripercorre lo stesso cammino in senso inverso, esplicitando ulteriormente i termini. Si parla dell'incarnazione facendo riferimento non più alla luce, ma al Logos che si fa carne e pone la tenda fra gli uomini, verso 14. Si cita ancora la testimonianza del Battista a proposito del Cristo, verso 15, per terminare con il riferimento alla legge data da Mosè, verso 17, che sembra corrispondere alla creazione, del verso 3. Ciò si fonda su quanto detto a proposito dei 10 comandamenti indicati come 10 parole, in riferimento alle 10 volte nelle quali Dio parla all'inizio della Genesi nel creare il mondo. L'ultimo versetto riproduce l'immagine del Verbo rivolto al Padre, con cui si è aperto il prologo, ora tradotta però in termini filiali, in quanto il Verbo è identificato con il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, verso 18. In questo modo, la seconda parte del prologo, dopo il verso 12, riproduce un moto ascendente che dalla storia torna all'intimità di Dio. In termini patristici, questo movimento di uscita da Dio per tornare a Dio viene espresso come exitus reditus, in quella correlazione di causa e fine rivelata in Cristo che sola può rendere ragione dell'uomo, il quale è essenzialmente figlio nel figlio. Non a caso il prologo, con la sua dottrina della filiazione, è stato fondamentale per la teologia dei padri, in particolare nel secolo IV. Il testo implica che la creazione è un'operazione esclusivamente divina, perché il Verbo è una cosa sola con Dio, non un demiurgo, cioè un ente intermedio. Il Verbo non è generato a causa delle creature o in vista della creazione, ma al contrario l'universo è stato creato a causa sua e in vista di lui. Il mondo ha il suo senso nel Figlio. Il ruolo del Verbo non è dunque passivo, ma attivo, nell'unica azione con il Padre. Il versetto iniziale si collega naturalmente a Genesi 1:1. La creazione non avviene solo per mezzo del Verbo, ma anche nel Verbo, come spiega Agostino, perché il Verbo stesso è nel seno del Padre, nel principio. Si noti che l'Apocalisse parla del Verbo come del principio, Apocalisse 3:14, e come dell'Alfa e dell'Omega, 21:6, 22:13. Questa creazione nel Verbo sottolinea l'aspetto dinamico del ruolo del Figlio nell'atto creativo. La presenza del Verbo nella creazione è per Giovanni come la presenza della vita. Il Dio della Bibbia è sempre stato identificato con il Dio dei vivi, Daniele 14:25, rispetto agli idoli. Basta pensare all'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo, Giovanni 4:10. L'acqua viva che dona il Figlio è tale perché egli ha in sé la vita del Padre, Giovanni 5:26. La creazione sgorga quindi dall'infinita ed eterna vitalità del Figlio, eternamente generato dal Padre. La filiazione si rivela come senso dell'intera scrittura. Tutto è mosso dinamicamente da essa. Solo alla luce della dottrina trinitaria, quindi, si avverte il pieno valore della creazione. L'originalità filosofica del cristianesimo consiste proprio nella simultanea affermazione della trascendenza e immanenza del Logos. Se questi è veramente Dio, non si perde donandosi e non ha bisogno di difendersi, rimanendo in una posizione superiore per evitare il contatto con chi sta sotto di sé. Può scendere tra, entrando liberamente in questo mondo da lui creato. Così lo stesso nuovo concetto di trascendenza, sviluppato a partire dalla rivelazione, permette di comprendere la contemporanea presenza del Logos anche nell'immanenza. Ciò spiega il riferimento all'ontologia del dono. Ogni dono, infatti, è di colui che lo ha ricevuto, ma viene da un altro. E se questo dono supera radicalmente la natura di colui che lo ha in suo possesso, ci si trova in una situazione analoga a quella della creazione. È come se un bambino fosse in possesso di un gioiello preziosissimo. Sarebbe evidente che non lo ha acquistato con il proprio sforzo, ma lo ha ricevuto in dono da papà e mamma. Analogamente, la creazione rimanda al Creatore, in quanto la sua bontà e la sua bellezza rivelano la relazione fondante con l'autore e la sorgente di ogni dono. Nel prologo, addirittura, è il Logos stesso, cioè il Figlio, a diventare dono e punto di unione tra il tempo e l'eterno, tra l'intimità divina e il creato. L'amato dal Padre si fa creatura per amore del Padre, riportando tutti i figli dispersi al Padre stesso. Colui che è figlio dall'eternità per natura supera con l'amore il divario assoluto tra il creatore e la creatura, per rendere gli uomini figli del Padre per grazia. La dottrina paolina. Anche negli insegnamenti paolini si avverte la continuità con l'Antico Testamento. Paolo non solo si basa sulla dottrina della sovranità universale del Creatore e della bontà della creazione per dirimere la questione della carne offerta agli idoli, 1 Corinzi 10, o per parlare della resurrezione dei morti, 1 Corinzi 15, ma anche lui, come Giovanni, sottolinea il ruolo centrale di Cristo, specificando come il Padre e il Figlio intervengono nell'unico atto creativo. Nei testi paolini più primitivi si sottolinea principalmente l'azione del Padre, ec uguale da Lui, in Romani 11,36, dia uguale per mezzo di Lui, in Efesini 4,4,6, eis uguale per in Lui, in Prima Timoteo 6,13,15. Nei testi più tardivi, invece, alcune delle preposizioni dal Padre sono spostate sul Figlio, in particolare in 1 Corinti 1,5,6, dove si confessa che tutto proviene dal ec Padre e che siamo in eis Lui, e si confessa l'unico Signore Gesù per mezzo del quale Dio esiste ogni cosa e anche noi esistiamo per Lui, di autou. Al Figlio viene ora attribuita la causalità mediatrice. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale, exou, tutto proviene e noi siamo per eis Lui. E un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale, di ou, esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui, di autou. 1 Corinzi 8,6. Ma il vertice della dottrina si presenta in Colossesi 1,15-20, dove si dice che il Figlio è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, evidenziando la sua eternità e la sua trascendenza. Qui la sequenza delle preposizioni è tutta riferita al Cristo, definito causa, senso e fine della creazione. In Lui, en auto, per mezzo di Lui, di autou, e in vista di Lui, eis auton, sono state create tutte le cose, angeli compresi. Egli, come nel prologo giovanneo, è inizialmente presentato nella sua eternità, in quanto è prima di tutte le cose ed esse sussistono in Lui. Ma immediatamente le preposizioni sono spiegate attraverso l'agire salvifico del Figlio incarnato, che comunica la sua pienezza di vita anche agli uomini, per riportare tutto il creato al Padre. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui, en auto, furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, di auto, e in vista di Lui, eis auton. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui, en auto, tutta la pienezza e che per mezzo di Lui, di auto, e in vista di Lui, eis auton, siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Colossesi 1,15-20. Ciò esprime ancora una volta la continuità tra creazione e salvezza, evidenziando come la creazione sia un unico atto nel quale intervengono sia il Figlio che il Padre. Il centro del brano è l'attribuzione al Figlio, sia del di autou che del eis auton, che precedentemente era attribuito solo al Padre. Cristo è quindi per Paolo anche causa finale di tutta la creazione. Il compimento, il senso della creazione è che tutta la gloria sia resa al Padre, e ciò si realizza proprio nel Figlio che riporta ogni cosa a Lui. La vocazione del cristiano, di ogni cristiano in quanto battezzato, è qui rivelata in questa missione filiale di riportare il mondo al Padre come figli nel Figlio. Cristo è riconosciuto come senso di tutta la storia, non solo come immagine esemplare, irraggiungibile prototipo perfetto al quale ispirarsi, ma anche come immagine finale, attiva, creatrice e redentiva. Cristo agisce, opera per riportare l'uomo al Padre insieme a tutto il creato e associa l'uomo a questo compito chiamandolo ad essere a sua volta attivo nel ridonare il dono. Nella prospettiva paolina, particolarmente cara ai padri, il creato è pensato per il Figlio, è dono per Lui, uomo che è canone dell'umanità. Joseph Ratzinger, Gesù di Nazareth, Milano 2007, pagina 168. L'incarnazione non appare come frutto necessario e forzato del peccato, quasi che Dio diventasse uomo contro voglia, facendosi violenza. Ma da sempre il mondo è pensato perché il Figlio si facesse carne. Il senso del creato è così l'amore, il desiderio di unione del Creatore con la sua creatura. In qualche modo, fin dall'inizio, creando il cielo e la terra, il sole e le stelle, Adamo ed Eva, Dio aveva in mente Nazareth e Betlemme. Ciò fa della filiazione il senso del mondo. Il logos, il senso, la ragione è sia il principio che il fine, in modo tale da trasformare in libertà lo spazio che li separa. La storia e la creazione si presentano così in Cristo come rivelazione d'amore.